E eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano dedicato ai giochi da tavola e condotto da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Vero Claudio? Sì, cioè di solito la frase è condotto da dimostratori. Ah, ok. Il podcast sui giochi a tavola condotto da dimostratori, ovvero Esatto. Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Ok? Esatto, questo è l'inizio giusto. Questo è l'inizio tradizionale. Per dimostrare che non è registrazione ogni volta. Esatto, non è un pezzo montato, ogni volta viene ripetuta le stesse identiche cose. Allora, finiamo di ripetere le stesse identiche cose. Siamo in diretta, no. Siamo online su Radio Big World, se ci state ascoltando il lunedì sera alle 8. E quella che avete appena sentito è la nostra sigla, ovvero Happy Days di purpleplanet.com, musica royalty free, ma che creditiamo quando ci ricordiamo di farlo, perché è giusto così. Bene, siamo pronti a iniziare con l'episodio e oggi parliamo di giochi free, ovvero parliamo di giochi senza un tema della serata, ognuno parla di quello che vuole. Non perché abbiamo finito i temi, ma perché così, per cambiare un po'. Ma anche perché è un po' più semplice, diciamo che è vero, c'è una grande vastità di giochi da tavola nel mondo, però è più semplice così, diciamo. Se scegliamo un tema, non è poi così facile alla fine dei conti trovare sempre tanti giochi. No, Bisogna anche conoscerli comunque. cioè se sei Tom Basel a cui ogni gioco che esce gli viene regalato allora se, e lo deve provare, allora sì, noi prima o poi finiremo la nostra conoscenza di giochi da tavola e collegarne 4 ogni puntata inizierà a essere un po' difficile. E quindi, appunto, per questo. Invece che continuare a depennare della lista i giochi che conosco già perché possiedo o gioco da molti anni, oggi parlerò io, inizio io, ti dispiace? No. Ok, oggi parlerò di un gioco che ho appena giocato e che forse non giocherò per molto tempo e quindi prima di dimenticarmene e perdere questa occasione voglio condividerlo con tutti voi. E il gioco è We Will Walk You della Pexus Spiel, gioco del 2012, un gioco di carte che come il titolo We Will Walk You, che è un gioco di parole con Walk e la canzone dei Queen, We Will Rock You, ci fa presagire il fatto che è un gioco dove ci sono delle citazioni, appunto citazioni musicali, perché in questo gioco dovremo preparare dei piatti tipici di un wok, quindi di un ristorante asiatico. E gli ingredienti saranno a tema musicale. Avremo il broccolo Freddie Mercury, avremo Tina Tuna, ovvero il tonno Tina Turner, e il pollo, com'è che si chiama? Mick Jagger e così via. Come funziona il gioco? Allora, la componente principale del gioco sono questi ingredienti, queste carte ingrediente. Poi avremo altri due tipi di carte, le monete e i piatti, tutto qui. I componenti sono questi tre tipi di carte. A inizio partita verranno disposti, a seconda del numero dei giocatori, un tot di piatti da poter comprare per poter poi comporre. Poi vengono create delle pile di ingredienti, due da due e due da tre, e a fianco di queste pile viene messo un costo per comprarle, un costo di fianco alle pile da 2 e uno di fianco alle pile da 3. Se non ricordo male, 3 monete, 3 carte moneta di fianco alle pile da 2 e 3 carte moneta di fianco alle pile da 3. Dopodiché vengono distribuite le restanti monete ai giocatori, dovrebbero essere 3 per giocatore. A questo punto, un giocatore durante il proprio turno può o comprare un lotto di ingredienti, quindi una pila da 2 e una pila da 3 con il costo riportato a fianco, quindi le monete che sono posizionate accanto alle pile indicano il costo del lotto, comprare un piatto o prendere le monete accanto a un lotto, prendere una moneta accanto al lotto. e quindi scontarlo agli giocatori che vengono dopo. Allora, comprare un lotto di ingredienti appunto costa soldi. I soldi che andiamo a pagare dalla nostra mano vanno a rincarare il costo. Quindi se compriamo un lotto che costa 3, le nostre 3 monete vengono aggiunte e i lotti da 2 a questo punto costano 6. In più il lotto appena comprato viene sostituito da 2 nuove carte dal mazzo. Quindi ogni volta che noi compriamo rincariamo i lotti che rimangono. Altrimenti possiamo prendere una moneta, come dicevo prima, per scontare i lotti agli altri giocatori, ma per rifarci i soldi, perché i soldi in questo gioco girano molto. Oppure, dicevo, comprare un piatto. Come si comprano i piatti? Non con i soldi, ma con i simboli. Gli ingredienti possono avere quattro diversi simboli. Le bacchette, il biscotto della fortuna, un altro che in questo momento non ricordo, e il Jolly che è una stella. Quando nella nostra mano abbiamo tra le carte ingrediente quattro simboli dello stesso tipo, possiamo calare le carte dalla nostra mano per comprare un piatto. Le carte calate, non, ingrediente, non vengono perse, però rimangono davanti a noi giocate, in modo che non possiamo riutilizzarle per comprare un altro piatto. Ma verranno utilizzate però a fine partita per comporre i piatti. Quindi il gioco principalmente è un gran prendere monete, comprare lotti e comprare piatti. I piatti che vengono composti a fine partita, ovvero quando non sarà possibile rimpinguare 2 lotti di carte esauriti perché il mazzo è finito. Ogni giocatore tenterà di comporre i piatti, ognuno di essi ha delle richieste, con le carte che ha calato durante la partita per comprarli e con le carte che ha in mano, che anche queste comunque vengono utilizzate. I piatti sono di diverso tipo, ci sono quelli già completi che danno i punti vittoria secchi, oppure quelli che richiedono certi ingredienti e per questi ingredienti danno un tot di punti e quelli che richiedono i tris o 5 carte uguali o 5 ingredienti uguali e così via. In più esistono anche gli obiettivi blu che sono dei potenziamenti per un piatto che possiamo attaccarli a un piatto per aumentare il numero di punti vittoria che esso ci dà. Quindi di base il gioco è un gran tran tran di carte e comprare e spendere, e a fine partita tutto ciò che abbiamo comprato lo gestiamo in modo da fare più punti possibile, quindi distribuiamo un tot di ingredienti da una parte, un tot dall'altra e così via. Il gioco è tutto qui, è un semplice gioco di carte. Non ti ho stupito, Claudio, vedo. È un semplice gioco di carte. È un semplice gioco di carte, esatto. E poi, cos'altro dire? Passiamo ai dati più tecnici commerciali. Allora, il gioco, come vi dicevo, è del 2012, della tedesca Paxos Spiel. Quindi in Italia è difficile trovare nei negozi fisici, sono solo i negozi che hanno una distribuzione un po' più ampia possono averlo. Vedo che il prezzo del gioco è anche molto basso, costa sui 13 euro. E di difetto ha però che è uscito solo in Germania, almeno a quanto sembra, anche se dentro contiene il regolamento in inglese, e questo lo posso assicurare perché la versione che ho provato aveva il regolamento in tedesco e in inglese, e quindi per chi non conosce altra lingua oltre all'italiano, il regolamento può essere ostico. Dal punto di vista del gioco, invece, la lingua non è importante perché l'unico testo che c'è è il nome degli ingredienti, che comunque sono nomi di personaggi famosi storpiati. Non è importante ai fini del gioco. Tutto qui. Chiudo con We Will Rock You, un giochino carino, forse un po' ripetitivo, questo dobbiamo ammetterlo, da 2 a 4 giocatori, anche questo mi sono scordato di dirlo, e un altro forse difetto, se vogliamo, è che nell'essere ripetitivo è anche un po' lunghino, per essere un gioco di questo tipo, ad esempio, dura anche tre quarti d'ora, un po' troppo forse. Però è simpatico e soprattutto è molto semplice e anche agibile per i bambini. Bene, Claudio, vai, ti passo la palla. Ok, allora adesso parliamo di un gioco che è il doppio meglio di Walkstar, o come si chiamava? We We will Will walk Walk you. You. Esatto. Se quello era da 2-4 giocatori, questo è da 4-8 giocatori. Se quello durava 45 minuti, questo dura 30 minuti. E il costo Se... sarà 5 volte tanto, probabilmente, forse un pochino di meno. Però costerà un po' di più. Età consigliata 12 anni in su. Questo è un gioco che è ancora meglio perché è uscito l'anno dopo, quindi il 2013. ah, ecco. È un gioco che non possiedo, che da tanto non gioco, ma che mi ricordo abbastanza. Pubblicato dalla Stronghold Games, parliamo di un gioco della serie di Space Cadets, e questo è Space Cadets Dice 2. Ah, ma guarda cosa hai tirato fuori. Questo effettivamente è uno di quei giochi che un po' mi manca da rigiocare perché non abbiamo più avuto modo, ma un tempo, un po' di partite le abbiamo fatte a questo gioco. Anche perché, Già. come già detto, da 4-8 giocatori questo è uno di quei giochi che, quando è un sacco di persone, è un gruppo di tante persone, è abbastanza l'ideale, anche perché in mezz'ora si gioca. Mezz'ora, massimo 3 quarti d'ora, anche qui. Perché un gioco di questa portata, con così tanti giocatori, dura così poco? Perché questo è un gioco frenetico, dove non ne abbiamo dei turni, quindi non c'è da aspettare. Cioè, questo gioco è tutto in tempo reale. La particolarità di questo gioco è che si gioca a squadre, quindi bisogna sempre essere in numeri pari, 4, 6, 8 che siano. Possibilmente. Sì. Al massimo si sa una squadra che ha un giocatore in più. Perché tutti i giocatori sono coinvolti nello stesso momento nella partita. Il gioco rappresenta la battaglia tra due navicelle, in uno certo spazio di gioco, in una gara, cioè, insomma, nello spazio. E durante questa battaglia però si possono anche ottenere dei speciali cristalli che sono dei potenziamenti che servono a poter gestire meglio, diciamo, comunque a subire un colpo in più, se non ricordo male. Ognuna delle due navicelle ha le stesse potenzialità, quindi in realtà si tratta di un gioco molto push your luck, di avere un sacco di fortuna con i dadi, ma devi anche essere molto veloce. Quindi in realtà non è solo un gioco di fortuna, è anche un gioco di riflessi, cioè tu devi anche essere attento a vedere subito se sei riuscito a fare la combinazione che ti serve. Ma è anche un gioco dove bisogna lavorare di squadra perché c'era un giocatore che, indipendentemente dal numero di giocatori, o a volte anche se c'è il numero di giocatori massimo, potrebbe avere solo il ruolo di dare dei consigli a tutti i settori della nave, che sarebbe il capitano. In altri casi il capitano può anche coprire altri ruoli volendo, perché bisogna comunque coprire tutti i ruoli della nave, se non si è in tanti si divide i compiti. E quindi se si gioca al massimo di giocatori, ogni giocatore avrà a disposizione un settore della nave, se si gioca un po' di meno si divide i compiti dei vari settori. E comunque bisogna cercare di gestirli tutti perché ognuno è fondamentale nella riuscita della battaglia contro la nave avversaria. Il gioco termina quando una delle due astronavi è stata distrutta. E gli unici momenti in cui il gioco viene fermato, temporaneo, cioè proprio si ferma il tempo, è quando una navicella deve dichiarare il suo movimento o quando esegue un attacco, se non ricordo male. E si Sì. calcola tutte le traiettorie e gli effetti che hanno attivato i dadi che sono stati utilizzati. Anche quando viene utilizzato il raggio traente, mi sembra si fermi la partita. Ok, quindi anche quando praticamente si fanno delle cose che corrispondono su una navicella che è nella plancia. Perché noi avremo una plancia con diversi settori a quadretti, due navicelle che partiranno da un angolo opposto all'altro praticamente, e questi cristalli che sono sparsi in certe zone della plancia. Ogni giocatore avrà a disposizione delle tessere che rappresentano il settore della nave che tu devi gestire, e dei dadi che hanno il colore che rappresenta il settore che tu stai gestendo. Quindi per dire, non so, cioè, quello che si occupa degli attacchi avrà i dadi rossi che rappresentano i missili. Quello che si occupa del manovrare la nave in movimento avrà i dadi gialli che hanno nelle facce del dado delle frecce che indicano il tipo di movimento che puoi fare, quindi cambiano anche le facce. E se non ricordo male ci dovrebbe essere anche l'ingegnere, che tira dei comunissimi dadi da 6, che che può assegnare a tutti gli altri settori per dirgli quanti dadi hai a disposizione da lanciare. Perché ogni settore corrisponde anche a un numero, se non ricordo male. Sì, esatto, ogni sezione ha un numero. Quindi, per esempio, se tu lanci 4-3, puoi dare a disposizione 4 dadi al settore numero 3. E quindi lui può lanciare fino a 4 dadi del suo tipo e assegnarli alla nave. E l'ingegnere, a differenza degli altri, può continuare ad assegnare dadi agli altri, mentre gli altri li hanno limitati. Cioè, dopo un po', per dire, i dadi della difesa finiranno. Mi pare che in totale siano 6 per ogni settore, una cosa simile. E allora, i settori della nave sono praticamente il settore di manovra, diciamo, quello che ha tutta la guida, quindi i dadi gialli che dicono il movimento, che potrebbe essere movimento ad L, movimento dritto per dritto. Devi assegnare un tot di dadi, quando li hai assegnati tutti, risolvi quei movimenti di dadi. Esempio, tipo 3 dadi, tu hai fatto avanti, poi hai curvato, poi hai fatto avanti, risolvi quel movimento, si ferma il gioco e la tua astronave si muove sulla plancia in questo modo. Poi dovremmo avere il reparto delle armi, che devi caricare, per poi caricare dei missili. E i missili sono scomposti in facce nei vari dadi, quindi tu devi fare la faccia con il retro del missile, con il centro e col davanti per aver composto un missile che è stato appena caricato. Poi abbiamo il sensore. Il sensore serve a localizzare la nave avversaria, quindi a darti dei bonus a colpirla a una certa distanza. E quindi ha queste facce che hanno vari mirini. Più ne hai, e meglio è praticamente. Poi c'è il settore difensivo, che devi assegnare degli scudi alla nave, ma questi li puoi assegnare solo a un lato della, a vari lati della nave. Quindi se tu stai coprendo il retro, ma la nave avversaria ti ha davanti e ti colpisce frontalmente, non hai gli scudi per pararti, perché ce l'avevi nel retro della nave gli scudi. Quindi anche qui c'è un po' di tattica. E poi c'è il raggio traente, che è il settore più particolare, che ha questo potere che puoi utilizzare per o spostare o avvicinare la nave nemica praticamente, oppure recuperare a distanza questi cristalli che sono dei potenziamenti. Ogni nave ha un tot di punti ferita, quando ha subito il massimo dei punti ferita, quella è stata distrutta e l'altra squadra ha vinto. E Allora, anche quando perdi punti ferita, perdi anche dei dadi, quindi diventi sempre giusto. meno duttile come astronave, diciamo. Esatto, la nave sta iniziando a cedere, quindi ha dei problemi, ha dei difetti. Perché E fai meno cose rispetto all'altro che è più in salute. ho tirato fuori questo gioco? Perché giocare una partita è una cosa assurda. Tu vedi gente che urla, cioè, no, urla no. I capitani parlano tranquillamente, ma i giocatori tirano freneticamente i dadi perché ah, questo va messo così, però se lo metto così, capitano. Poi c'è, oppure c'è l'ingegnere che, ah, devo assegnare questi a te, tu vai a sfatiare questo dado qua, aspetta, dovrei lanciare questo, perché questo non va bene, perché lì siamo già pieni di dadi, poi a un certo punto stop, dall'altro lato ci stiamo per muovere. È tutto completamente frenetico, ma non frenetico nel senso, non ci sto capendo niente, frenetico nel senso che tu stai entrando, che tu entri facilmente nel vivo del gioco, perché ti danno un settore e tu lo devi far funzionare. E da un momento all'altro potrebbero dirti: però adesso devi cambiare i dadi perché non c'erano più lì, quindi adesso ritirali subito e dobbiamo metterli di qua un po' e un po' da questo lato, perché se no, oppure ricarica i missili in fretta perché dobbiamo provare a sparare di nuovo perché adesso non hanno gli scudi. E quindi è tutto un gioco di frenesia. Anche i capitani hanno la loro parte, comunque sono loro che devono controllare la plancia, mentre i giocatori non ne hanno tempo, non capisco, cioè, sono sempre lì a guardare i loro dadi, a aspettare che gli vengano passati dall'ingegnere. È un gioco volendo adatto anche un po' a tutti, non è così complesso. Se tu a un giocatore gli dai un settore e glielo spieghi, non c'è niente di complicato. Cioè, alla fine devi sempre fare quella cosa lì durante quella partita. Tra l'altro, Sì, dimmi. non ricordo se era un'espansione o c'era già nella scatola base, ma ci sono anche i due caccia. Ah, questo non saprei dirti Mi adesso. sembra fosse già nella scatola base che se si ha massimo giocatori, due usano i caccia e praticamente sono delle astronavi mini con i loro dadi che vanno per i fatti loro e aiutano l'astronave madre. Comunque, posso dire con certezza che è un gioco abbastanza buono per iniziare anche giocatori, volendo, tanto non. Vabbè, Poi, sì. cioè, dipende anche dai giocatori, eh. Però sì, dai, è un gioco semplice e carino, dai, alla fine dei conti. Inoltre appartiene a questa nuovo come dire, nuovo brand, nuovo poi ormai da qualche anno, che è Space Cadet, che è questa rivisitazione cartoon del mondo di Star Trek, di cui hanno fatto già diversi giochi e tutti in genere diverso. Dice 2 appunto è questo gioco di dadi molto cacciarone, poi c'è anche il cooperativo, il gioco di carte, insomma Space Cadet è un'ambientazione ricca di giochi diventata. Sì, no, è una sorta di brand. E niente, un gioco divertente da ricordare, probabilmente anche da rigiocare. Ok, sì, confermo. I due caccia aggiuntivi sono un'espansione del gioco base. Ok, scusa se ti ho interrotto. Ah, ma abbiamo finito con il gioco. Sì, c'è da dire che il costo non è elevato come temevamo prima. Costa quasi 40 €, ma c'è da dire che è pieno di dadi che a livello di componenti sono una delle cose più costose nei giochi da tavola, le carte e i dadi. E è un gioco che praticamente è solo distribuito in America, quindi qua arriva di importazione e quindi a costi maggiori, come l'altra volta dicevamo di Darkness Confronting. E il fatto di essere appunto distribuito unicamente in America rende problematico trovare questo gioco, che comunque tramite i soliti negozi online è fattibile. Poi dopo probabilmente tramite certi distributori anche il vostro negozio di fiducia, il Friendly Local Game Store, potrebbe ordinarvelo. Bene. Cosa mi hai ricordato? L'avevo scordato sto gioco, Krause. Bene, adesso te lo ricordi. Sì. Bene. Quindi proseguiamo con il mio secondo gioco della serata, che è un regalo che proprio tu, Claudio, hai fatto. Beh, io sono bravo a selezionare i giochi da tavola, quindi è giusto che venga ricordato questo regalo. Ok, sì, effettivamente anche perché sono giocato da poco. E il gioco è Dingo's Dreams, che è anche recentissimo, essendo un gioco di quest'anno. Praticamente, Dingo's Dreams. Scusate. In questo gioco i giocatori avranno delle tessere raffiguranti il loro animale guida da un lato e dall'altro lato vari ambienti onirici, montagne, caverne, cascate, però molto fantasiose, insomma, no, molto queste immagini, questi paesaggi bellissimi. E con queste tessere comporranno una griglia 5x5 dinanzi a loro. Gli animali guida, che sono l'echidna, il dingo, il canguro e il koala, rappresentano la condizione di vittoria del gioco, perché a inizio partita verrà pescata una tessera che mostra come la griglia deve essere composta per vincere la partita. Praticamente in questa tessera alcune delle caselle della griglia 5x5 saranno segnate con un pallino, se non ricordo male. E queste tessere col pallino devono avere lato con il nostro animale in quella posizione per poter vincere. Insomma, se la griglia ha nelle tessere giuste il lato con l'animale, la partita è vinta da quel giocatore. Quindi ognuno ha la sua griglia e gioca per se stesso. Il gioco praticamente non ha interazione tra i giocatori. Ognuno durante il suo turno fa due cose. Gira una carta dal mazzo e quella carta dice quale tessera paesaggio si girerà sul lato animale, e questo è effetto su tutti i giocatori. Ok, però non è proprio un'interazione diretta, cioè io giro una carta, ha effetto su di me ma anche sugli altri, ma non è che sono io che sto sabotando gli altri. Quindi mettiamo che io giro la carta Caverna Rossa, tutti quanti girano nella loro griglia o nella mano, che dopo vi spiegherò, la tessera Caverna Rossa verso il lato del loro animale guida. Poi, se sono fortunati, l'animale guida si trova già nella posizione in cui deve essere per la condizione di vittoria. Dopo aver girato la carta, l'altra azione da fare è spingere una fila della griglia con la tessera che abbiamo in mano, perché noi avremo sempre una tessera in mano. All'inizio partita sarà una tessera che ha semplicemente il nostro animale. Dopodiché questa verrà inserita nella griglia. E e potrà far uscire da un lato, anzi farà uscire da un lato, un'altra tessera dal lato del paesaggio, dal lato dell'animale. Una cosa importante è che nel gioco le tessere non tornano mai dal lato del paesaggio, quindi a un certo punto la partita finisce per forza perché tutte le tessere iniziano a girarsi e la composizione richiesta dalle condizioni di vittoria si crea anche da sola a un certo punto se ci si mette molto. E quindi il gioco semplicemente è tutto qui. Si gira una carta, la tessera raffigurata nella carta si gira sul lato dell'animale, poi inseriamo la tessera che abbiamo in mano nella griglia. E cambiando così la disposizione e avendo una nuova tessera in mano che può essere dal lato paesaggio o dal lato animale. Tutto qui. Il gioco va avanti finché uno dei giocatori non compone la composizione richiesta dalle condizioni di vittoria, dalla tessera pescata inizio partita e messa al centro del tavolo. C'è qualche variante, mi ricordo una variante. E allora, innanzitutto ci sono dei dischetti nel gioco per poter creare le proprie condizioni di vittoria, delle carte griglia bianca e bianche dove i dischetti vengono messi all'inizio partita dei giocatori per decidere la composizione della vittoria. In più ci sono alcune carte che oltre a richiedere che certi animali guida abbiano una posizione, per vincere richiedono anche che in altre posizioni non ci sia l'animale guida. Questo rende la partita molto più difficile, soprattutto perché a un certo punto diventa impossibile. Se ci si mette molto, diventa impossibile perché sono girate troppe tessere, ci sono troppi animali e non c'è più la possibilità di avere dei paesaggi per completare questi obiettivi. Tutto qui. Questo è Dingo Dreams, un gioco semplicissimo che può essere spiegato a chiunque e che costa la modica cifra di 20 euro o sui 20 euro. Il gioco non ha una distribuzione italiana, quindi il regolamento dentro è in inglese, per chi non conoscesse la lingua potrebbe essere un problema, e tiene dai 2 ai 4 giocatori. L'editore originale del gioco è la Red Raven Games. Non conosco altri giochi di questo editore. Anche questo non so quanto sia reperibile in Italia, però credo che con internet non sia difficile. Bene, sono stato velocissimo, visto? Sì, bene. Prego. Allora io vado con un altro gioco del 2016 che io possiedo in inglese. Recentemente è uscito in italiano, quindi adesso si può anche trovare tranquillamente. E questo è un gioco che merita parecchio. Allora, pubblicato da Yello in Italia da Uplay. Da 2 a 4 giocatori parliamo di Sea of Clouds, Mare di Nuvole. Oh, tutte le È un volte, gioco. Sì. scusa, tutte le volte che penso a sto gioco, ma tutte, mi viene in mente il Isle of nome Sky, Isle of Sky. che è un altro gioco da tavola, Sì, guarda, lo completamente so, però tutte le diverso. volte io collego quel nome a questo gioco, cioè l'altro Però non questo. esiste. Io sono Isola nel cielo, questo qui invece è il mare di nuvole, è un po' Eh diverso. già, ma sono complementari, almeno a livello di titoli, Beh, vabbè, scusa. effettivamente anche la copertina, vedi una nave che sta andando verso delle isole volanti, quindi ci può stare, potrebbe avere quel titolo lì. Comunque, scusa se ti ho interrotto, continua pure. È un gioco abbastanza piccolo. E anche molto veloce. Qui dicono che in 3 quarti d'ora si può giocare una partita. In realtà, dopo che se ne ha giocato anche un paio di partite, anche in mezz'ora si finisce. Perché la meccanica è talmente veloce e le carte non sono poi così tante che quando ti ricordi gli effetti il gioco è abbastanza immediato. Poi se è anche in italiano, non c'è neanche bisogno di ricordare. Fai, dai una letta veloce e vai ancora più veloce. Allora, ogni giocatore all'inizio partita selezionerà una plancia rettangolare che rappresenta il suo personaggio, cioè il capitano della sua nave. Quindi ognuno di noi sarà il capitano di una nave pirata molto stravagante, che potremmo selezionare tra il classico capitano barbuto, con però il pappagallo robotico sulla spalla, una geisha giapponese con un ventaglio fatto di lame, il classico cicisbeo francese, oppure una stregona voodoo probabilmente rimando ai Monkey Island, giochi di avventure grafiche. E ognuno di questi personaggi avrà a disposizione una nave volante, quindi tutti noi siamo dei capitani pirata volanti, e ogni turno ci sposteremo tutti e quattro su una nuova isola. E infatti ci sarà un'altra plancia che determinerà i turni di gioco. Quindi alla fine del turno complessivo di tutti e quattro giocatori ci sarà un token nave che si sposterà su questa plancia nella prossima isola. E quando arriverà nell'ultima si farà l'ultimo turno di gioco e la partita sarà finita. Quindi il gioco rappresenta delle scorribande e delle battaglie tra pirati in tutte le isole che sono presenti in questo mare di nuvole. E in alcune di queste qui, che probabilmente saranno una sorta di porti, si scontreranno tutti per rubarsi il bottino. E questa è la fase della battaglia, ricorda particolarmente la battaglia del gioco Seven Wonders. È una cosa un po' particolare, effettivamente. Per alcune cose assomiglia molto a Seven Wonders, per quell'aspetto lì. Ma la meccanica di gioco invece è molto particolare, cioè la meccanica su come noi otteniamo i nostri potenziamenti. E adesso lo andiamo a vedere. Sotto la plancia che rappresenta i turni di gioco ci sono tre spazi per tre carte numerati da 1 e 3. E abbiamo un mazzo di carte che è diviso in quattro tipi di carte, che sono carte verdi, che sono oggetti, carte gialle che sono room, carte rosse che sono i pirati e carte blu che sono gli artefatti. Ognuna di queste carte si risolve in modo diverso, o a fine della partita o durante alcune fasi. A inizio partita si determinerà un primo giocatore, che lo sarà per tutta la partita. Questo primo giocatore avrà a disposizione anche il pappagallo col cuoricino. Il pappagallo ci permetterà di vincere tutti i pareggi che ci sono durante il gioco, principalmente nelle battaglie. Ma attenzione, potrà essere rubato con certe carte e ottenuto da altri giocatori. Nel turno il giocatore è obbligato a pescare la prima delle tre carte che sono staccate sulla plancia e a guardarla. Noi dal retro possiamo subito intuire cosa potrebbe essere, se è un oggetto o pirata o così via. La guardiamo, se la carta ci piace, ce la teniamo e la mettiamo dove la nostra plancia personaggio ti dice dove va messa. Esempio. Nella plancia personaggio sono i quattro simboli ai lati, le carte oggetto vanno messe a sinistra, i pirati sopra, gli artefatti a destra e il room in basso. E la maggior parte delle volte queste carte vanno tenute scoperte, quindi gli altri sanno che cosa abbiamo ottenuto. A meno che non abbiamo preso delle carte verdi speciali, che hanno la figura di un libro, che sono obiettivi segreti che risolviamo a fine partita, e quelli vengono giocati coperti. In ogni caso prendiamo una carta e la giochiamo, e a volte la risolviamo. C'è il simbolo bidone, che vuol dire prendila, giocala e poi scartala. Quindi va risolta subito quella. Se invece non vogliamo questa carta, la riposizioniamo sulla plancia e passiamo alla seconda. Però se noi non teniamo la prima carta, dobbiamo metterne un'altra da cima a mastro sopra quella lì. Così che il prossimo giocatore, quando dovrà pescare dalla prima pila, prenderà due carte invece che una e avrà maggior possibilità di avere più cose. Il problema è che molto spesso le carte sono negative. Se il giocatore non vuole tenere nessuna delle tre pile di carte, sarà costretto a prendere la prima carta del mazzo e a risolvere quella carta. Se invece una delle pile contiene già tre carte, io non la prendo e passo a quella dopo, non ci metto una quarta carta sopra, inizio a metterci dei dobloni adesso, che sono i soldi del gioco. I soldi non vengono spesi, vengono semplicemente trasformati in punti vittoria a fine partita, quindi un soldo vale un punto vittoria. Quindi vuol dire che anche se quelle tre carte sono pessime, ma ci sono 5 dobloni perché 5 volte non sono state prese, sono comunque 5 punti di vittoria. E tre carte che ti tocca tenerti, però 5 punti di vittoria non si buttano via di solito. E quindi questa è la cosa particolare del gioco. Io questa carta non la voglio, però dopo do la possibilità al prossimo giocatore di averne due. Oppure queste tre carte sono tremende, però dopo ci metto sopra un altro punto vittoria. Potrebbe essere un po' troppo negativo perché il prossimo giocatore ne ha già tanti. Oppure prendo questa carta perché so che serve al prossimo giocatore, se gliela lascio fa troppi punti. È un po' tattico. E c'è anche molta casualità, perché sono comunque tante diverse carte. E adesso passiamo a spiegare le tipologie. Le carte oggetto, di base ti danno dei bonus o degli effetti speciali che si possono attivare durante certi momenti della partita e a volte sono obiettivi segreti. Esempio, possono essere dei bonus nella battaglia o dei malus nella battaglia. Dei malus a inizio turno, oppure delle condizioni che ti permettono di evitare di perdere punti in certi modi. sono praticamente degli effetti che sono sempre attivi, diciamo, le carte oggetto. E però anche queste possono essere comunque tolte dai giocatori anche durante la fase battaglia. Le carte blu artefatti sono dei moltiplicatori. Esempio, ci sono quattro artefatti nel mazzo. Se io prendo il canto di sirena, che è quello di cui ce ne sono più copie, sarà più difficile fare punti se ne ho pochi, ma se ne ho tanti farò un sacco di punti vittoria a fine partita. E infatti il canto di sirena funziona così. Se io ne ho solo uno faccio meno 6 punti vittoria, mi pare una cosa simile. Se io ne ho due faccio meno 3 punti vittoria, se ne ho tre faccio 2 punti vittoria. Se li ho tutti 8 faccio tipo 40 punti vittoria a fine partita, che è un punteggio abbastanza grosso. Quindi tu devi, queste carte vanno collezionate. Le carte room, le gialle, sono punti vittoria secchi. Cioè, ti dà un punto vittoria, ti dà 2 punti vittoria. A volte te ne danno meno uno perché è room falso, dopo li dipende. A volte anche questi vanno collezionati, c'è anche un room da collezionista che ti dà un punto vittoria e poi te ne dà tre se sei il giocatore che ne ha di più in campo. E i pirati semplicemente sono delle carte che hanno un valore di forza e un effetto che si attiva se tu hai vinto la battaglia. Però attenzione, i pirati si risolvono solo nelle fasi battaglia, cioè quando noi arriviamo in un'isola con il simbolo della battaglia e abbiamo finito il turno in quell'isola, si attiva la battaglia. E la battaglia come funziona? Si parte dal primo giocatore. Questo dovrà risolvere la battaglia prima contro il giocatore alla sua sinistra, poi contro il giocatore alla sua destra, teoricamente. E vedere chi ha più valore di forza, guardando i loro pirati e i bonus dati dalle carte oggetto. Se tu hai vinto, risolvi l'effetto di ogni tuo pirata. A volte questi pirati hanno scritto che per uno, quindi che lo puoi risolvere solo una volta. Se questa cosa non c'è scritta, vuol dire che quell'effetto lo risolvi per ogni battaglia che hai vinto, quindi se hai vinto anche tutte e due le battaglie, tu farei sempre due battaglie perché hai sempre due vicini. Se ne perdi una, semplicemente risolvi solo per una vittoria e l'avversario ne risolverà la sua vinta. E gli effetti possono essere: ottieni delle monete dalla banca, ruba delle monete a un giocatore, ruba del room a un giocatore, ruba delle carte oggetto a un giocatore, dipende dai pirati che hai usato, ogni pirata ha degli effetti diversi. Finite le battaglie, tutti i pirati si scartano e si va avanti col gioco. Fino ad arrivare all'ultima isola dove sarà una battaglia finale. Finita la partita, si contano i punti. Ogni moneta che noi abbiamo sono punti vittoria. Poi contiamo gli artefatti, quanti punti vittoria ci danno. Contiamo le carte oggetto, che a volte possono darci anch'esse dei punti vittoria, contiamo anche il room, e poi risolviamo gli obiettivi. Dopodiché, avendo contato tutti i punti vittoria, il giocatore che ne avrà di più sarà il vincitore. E direi di aver risolto tutta la spiegazione del gioco. Ok, complimenti, sei stato esauriente. Sì, direi che è molto bello. È talmente veloce che, ma anche veloce da comunque da giocare, perché comunque dopo un po' inizi a attuare un po' le tue scorte di carta, nel senso, se uno sta giocando tanto sul room, magari perché sa anche l'obiettivo che deve avere più room, fa un po' fatica a prendere l'artefatto, quindi dice no, questa non la prendo, passiamo dopo che c'è il room. Dopo un po' diciamo che te lo gestisci e vai anche veloce nelle scelte delle carte. Sarò sincero, a me ho fatto solo una partita, ma non è che mi abbia colpito più di tanto. È carino, l'ho trovato meglio di Seven Wonder, anche perché Seven Wonder ha stancato. Però non, per dire, preferisco un Biblos a questo gioco. Però vedi, sono due cose diverse. Biblios è un gioco di aste. Sì, ok, era per fare un Questo esempio. è un gioco, diciamo, anche un po' di fortuna, comunque, perché tu ti puoi basare solo sul retro della carta prima di vederla. Però diciamo che comunque dà molto alla selezione delle carte. Cioè, se tu questa carta la prendi, potresti avere qualcosa di negativo. Però se la lasci, o comunque potresti avere anche pochi punti, però se la lasci, dà la possibilità al prossimo giocatore di averne due di carte. Ci sono comunque queste cose da guardare anche. Ok, non mi hai convinto. Cioè, Vabbè. no, per carità, è molto carino come gioco, però non è entrato nel mio cuore, diciamo. Vabbè, dai, però comunque potrebbe essere anche un buon acquisto, non potrebbe costare intorno ai 20 euro. 25. E di partite ne ho già fatte parecchie questo qui, perché comunque mi serve Sicuramente chi lo vuole giocare spesso. c'è da dire che i disegni di Coimbra sono fantastici. Coimbra probabilmente è il migliore illustratore di giochi da tavola in circolazione. Appunto, un'altra cosa che ha in comune questo gioco con Seven Wonder è l'illustratore. Ah, sì. E come dicevi giustamente tu, è uscito in Italia per Uplay Edizioni da pochissimo e costa sui 25 euro, quindi essendo di Uplay Edizioni è facilmente reperibile nei negozi del settore, anche qui in Italia e in italiano soprattutto. E tra l'altro gioco anche alcune carte promo e due ciurme promo. Ah sì? Io Sì. sapevo che ce n'era una. Ma vabbè. La piratessa asiatica, dici? No, io conoscevo l'altra, il tizio Large Dark. Cassidy. Sì. Ok. Ok, no, c'è anche una piratessa asiatica. Tale. Poi aggiunge due. Praticamente aggiunge due giocatori o cambia, semplicemente cambia la tessera che prende inizio Che partita? Vabbè, cambia la testa. allora vabbè. Sono Cioè, sono proprio promo, non è un'espansione. Kali sì. Khan si chiama l'altra Ok. piratessa aggiunta. Forse questa promo non è uscita solo per la Yellow, mentre l'Arch Cassidy è già disponibile anche per l'edizione Uplay, quindi anche qui in Italia. Comunque, direi che siamo arrivati. Sì. Bene. Anche oggi abbiamo parlato di quattro giochi molto diversi tra loro, mentre di solito parliamo di giochi simili tra loro. Abbiamo fatto qualcosa di diverso, insomma. E ora iniziamo a parlare, invece, prima di chiudere, della nostra associazione di Area Games, perché si sta avvicinando un periodo veramente, veramente attivo per la nostra associazione. Quindi, qual è l'occasione migliore che per venirci a trovare? Sì, anche perché è inverno, quindi siete chiusi in casa, non avete da andare in vacanza, quindi venite in Area Games. Sì, anche se non riesco a trovare il calendario che io ho fatto, accidenti. Vabbè, comunque, mentre cerco il calendario, inizio a citare, a annunciare gli eventi che mi ricordo. Allora, innanzitutto questa domenica, domenica 27 novembre, ah no, giusto, l'episodio andrà in onda dopo, ok? Questo evento lo Già. saltiamo. Vabbè, se ci state ascoltando, domenica 27 novembre siamo stati a Forlì in Popoli per la nuova edizione di Giochi in Comune, una manifestazione che portiamo avanti già da diversi anni, 4 o 5 ora non ricordo, in cui nella sala consiliare del Comune di Forlì in Popoli dedichiamo un pomeriggio di gioco per le famiglie nel periodo natalizio. Ma non temete se avete perso e domenica 27, perché questo evento si ripeterà anche domenica 11 dicembre. Quindi domenica 11 dicembre dalle 2 alle 7, sala consiliare del Comune di Forlì in Popoli, giochi in comune con Area Games. Porteremo una marea di giochi, ve lo posso assicurare, ma tanti, una cinquantina, no, ma anche di più. Comunque, e questo invece era giochi in comune. Prima di giochi in comune, domenica 4 dicembre, saremo al negozio Colleziona Mi Shop di Forlì, in via Campo di Marte, per una dimostrazione di giochi della casa editrice Devir. Casa editrice che ha riedito La Guerra dell'Anello, poi ha nel catalogo La Battaglia dei Cinque Eserciti, Odyssey, Jolly Roger, sì, Baby Baby Blues, quei giochi lì. Blues e così via. Quindi ha un sacco di titoli, sta continuando a sfornare questa casa editrice che è presente in tutto il mondo e la divisione italiana invece è giovane, ma si sta dando tanto da fare. Quindi potete provare gratis i giochi della Devir al Collezionami Shop con noi per tutto il pomeriggio di domenica 4 dicembre. Andiamo avanti con gli eventi, perché adesso passiamo a un altro tipo di evento, ovvero a un torneo, perché Venerdì 9. venerdì 9 dicembre Claudio ha organizzato un torneo di Smash Up, il gioco di Uplay di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Stiamo parlando del primo episodio, primo, primissimo, quindi è qualcosa da andare a raschiare fino in fondo per da cercare. Comunque è un gioco molto semplice di carte, si sta parlando. E sì, sarà un torneo tutto gratuito, dove si potranno vincere anche dei premi. Ovviamente chi arriva in finale vincerà i premi, però essendo un torneo gratis che comunque durerà probabilmente massimo 2 orette, perché Smash Up è un gioco abbastanza corto, sarà disponibile a tutti e non c'è alcun prezzo. L'unica cosa è che avremo un limite di 8 giocatori perché il gioco comunque contiene già due espansioni, quello che sarà messo a disposizione, e massimo sarà disponibile fino a 8 giocatori per le carte che contiene, diciamo. E ci Poi comunque saranno. arriveremo più nel dettaglio quando usciranno delle altre informazioni su Facebook, suppongo. Sì, presto apriremo l'evento Facebook per potersi iscrivere direttamente. E ci saranno ricchi premi per i due finalisti. Esatto. Poi, dopo il torneo di Smash Up, avremo invece venerdì 28, durante la serata associativa, l'asta di Natale, ovvero un'asta dove potrete portare giochi da vendere o dove potete comprare giochi messi in vendita da altri. Quindi tutta l'ebbrezza di un'asta con Asta Games, prima edizione di Natale 2016. Tra l'altro, i proventi della vendita dei lotti andranno praticamente totalmente a chi mette il lotto, perché Area Games prenderà solo 1 euro a lotto, quindi diciamo che è un'asta con molto ricarico per i venditori rispetto a quelle solite. E infine l'ultimo evento per ora annunciato, perché ne dovremo annunciare degli altri che sono ancora in lavorazione, questi sono quelli invece che sono sicuri al 100% già con data e orario, è domenica 8 gennaio, dove saremo a Mercato Saraceno per anche qui un evento storico della nostra associazione, la nuova edizione di A che gioco giochiamo? Un evento che si tiene nelle scuole elementari di Mercato Saraceno, dove anche qui dedicheremo un intero pomeriggio di gioco con Area Games, che porterà un'infinità di titoli. E vi posso assicurare che è un evento che, anche quello di Forlimpopoli, sono eventi che hanno degli anni e che vanno alla grande, cioè a livello di presenze parliamo di dai 50 ai 100 bambini, direi. Quindi un gran successone. Potete anche vederlo dalle nostre foto che trovate nella pagina Area Games su Facebook, Area Games ACSD. Nella sezione degli album ci sono gli album di tutta la nostra storia associativa e ci sono tutte le edizioni di questi eventi. Per il resto, per tutto il Natale, il periodo di Natale, continueranno anche le nostre solite serate associative, tutti i venerdì sera alle 21 presso il Bar President di Forlì. Potete segnarvi e prenotarvi ai tavoli proposti nell'evento Facebook che viene aperto a inizio settimana, oppure potete presentarvi durante la serata e prendere ciò che vi viene offerto da chi cerca giocatori per i giochi che ha portato. Ecco, non riuscivo a dirlo. Comunque possiamo assicurare che da noi nessuno rimane senza giocare, tutti si siedono e tutti giocano in Area Games. Detto questo, per oggi possiamo chiudere con la conquista del gioco. Vi salutiamo e ci vediamo la prossima settimana per un nuovo episodio. Ciao a tutti! Ciao ciao.